La fedeltà di Dio costituisce certamente uno dei temi e delle verità più importanti della fede del cristianesimo, perché se il Dio Trino non fosse fedele non ci si potrebbe fidare delle sue promesse. Da sempre il credente testimonia della fedeltà di Dio, ma bisogna anche riconoscere che chi ha una mentalità greco-latina ne parla in modo diverso da chi è di cultura ebraica. Noi occidentali parliamo della fedeltà di Dio in termini positivi, mentre gli scritti di cultura prevalentemente ebraica esaltano la fedeltà di Dio in special modo nelle situazioni negative. Ne ho trovato un esempio in un periodico cristiano che mi è arrivato di recente e nel quale leggevo la seguente riflessione. Il nostro Signore Gesù è colui che ci protegge da ogni lato perché sta sempre vicino a noi. Egli ce l'ha promesso ed egli è fedele. Io sarò con voi in ogni tempo fino alla fine dell'età presente. MT 28.20. Questo è il pensiero che predomina la mente dei credenti occidentali ed è il principio guida che troviamo nei libri concernenti la fedeltà di Dio. A mio avviso si dovrebbe però chiarire il significato dell'espressione Gesù ci protegge da ogni lato, poiché milioni di credenti nel mondo sono torturati, assassinati, violentati e sgozzati per la loro fede. Dunque, il credente occidentale vede la fedeltà di Dio nello scampare a un pericolo, quando ritrova del denaro perso in precedenza, quando ha sempre ciò che occorre. Quante volte si è letto in certi periodici «Il Signore è stato fedele» in questi 20, 30, 40, 50 anni? Quante volte ho letto nei notiziari di certe opere missionarie «Il Signore è stato fedele fino ad oggi», dove tale linguaggio sottintende l'aver ricevuto aiuti finanziari e altro al momento opportuno. Nulla di male, per carità, perché Dio è fedele anche in questo, ma questo tipo di fedeltà si discosta dalla visione degli adoratori ebrei dell'epoca precedente la nascita di Cristo e che è saggio prendere in considerazione per imparare a non costruirsi un'idea romantica di un Dio inesistente. Forse l'idea di un Dio che ci protegge, ci aiuta, ci salvaguardia da ogni male, intervenendo al momento opportuno, deriva dalla nostra cultura occidentale che vede nel benessere un segno della fedeltà da parte di Dio buono e pieno di amore. Ma di certo non era così prima che Gesù Cristo apparisse sulla scena mondiale, perché fino ad allora era normale che nazioni invadessero altre nazioni e questo significava distruzione, morte, donne violentate, bambini massacrati. Per forza di cose la fedeltà di Dio, secoli addietro, doveva essere vista in un'altra ottica. Per dimostrare che il pensiero ebraico in relazione alla fedeltà di Dio si discosta dall'occidentale, prendo dalla scrittura tre esempi nei quali di fedeltà da parte di Dio se ne vede ben poca o quasi niente. Tre modelli per i quali, secondo la cultura occidentale, si potrebbe negare che Dio sia fedele. Il primo esempio si trova nel Salmo 89. Il salmista inizia la preghiera richiamando alla mente la promessa più importante fatta dall'Eterno al re Davide, secondo la quale una sua progenie avrebbe per sempre occupato il trono. Ecco le sue parole. «Io canterò per sempre le benignità dell'Eterno. Con la mia bocca proclamerò la tua fedeltà a tutte le generazioni. Poiché ho detto, la tua benignità sussisterà in eterno, tu stabilirai la tua fedeltà nei cieli stessi. Io ho fatto un patto col mio eletto, ho giurato a Davide mio servo, dicendo, stabilirò la tua progenie in eterno, ed edificherò il tuo trono per ogni età. Pausa. Gli userò benignità per sempre, e il mio patto con lui rimarrà stabile. Renderò pure la sua progenie eterna e il suo trono come i giorni dei cieli. Se i suoi figli abbandonano la mia legge e non camminano nei miei ordinamenti, se violano i miei statuti e non osservano i miei comandamenti, io punirò la loro trasgressione con la verga e la loro iniquità con battiture, ma non ritirerò la mia benignità da lui e non lascerò che la mia fedeltà venga meno. Non violerò il mio patto e non muterò le parole che sono uscite dalla mia bocca. Ho giurato una volta per la mia esse a Nuovo Testamento e non mentirò a Davide. La sua progenie durerà in eterno e il suo trono sarà come il sole davanti a me. Sarà stabile per sempre come la luna e il testimone nel cielo è fedele. Pausa. Sono parole queste che prese sul serio fanno riflettere, non a caso, infatti. A questo punto il salmista fa una pausa, pienamente riportata nella parola di Dio. Poi, come se si svegliasse dal sonno per rientrare nella realtà, l'autore continua: «Ma tu ci hai abbandonato e respinto. Ti sei grandemente adirato contro il tuo unto. Tu hai disprezzato il patto fatto col tuo servo e hai profanato la sua corona, facendola cadere a terra. Hai abbattuto tutte le sue difese e hai ridotto in rovine le sue fortezze. Hai posto fine al suo splendore e hai gettato a terra il suo trono. Dove sono, o Signore, le tue benignità antiche che giurasti a Davide nella tua fedeltà?» Dunque il salmista non trova riscontro tra le promesse dell'Eterno e la realtà che sta davanti ai suoi occhi. Sul trono di Davide non regnava più nessuno della sua progenie, eppure, nonostante quello che vede, egli richiama alla mente la fedeltà dell'Eterno. Non solo. L'annuncia a tutte le generazioni. Avremmo noi fatto questo? Proclamiamo noi la fedeltà di Dio quando le evidenze negano le sue promesse? Il secondo esempio inerente alla concezione ebraica della fedeltà di Dio lo riceviamo da un brano descrittivo del momento più buio della storia ebraica, quando la città santa di Gerusalemme, emblema della presenza di Yahweh e della fede ebraica, viene distrutta completamente. Così si esprime il profeta Geremia, identificandosi con la città: «Io sono l'uomo che ha visto l'afflizione sotto la verga del suo furore. Egli mi ha guidato e mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Sì, contro di me egli ha volto ripetutamente la sua mano tutto il giorno. Egli ha consumato la mia carne e la mia pelle, ha frantumato le mie ossa. Ha costruito bastioni contro di me, mi ha circondato di amarezza e di affanno. Mi ha fatto abitare in luoghi tenebrosi, come i morti da lungo tempo. Mi ha costruito attorno un muro, perché non esca. Ha reso pesante la mia catena. Anche quando grido e chiedo aiuto a gran voce, egli rifiuta di ascoltare la mia preghiera. Egli ha sbarrato le mie vie con pietre tagliate, ha reso i miei sentieri tortuosi. Egli è stato per me come un orso in agguato, come un leone in luoghi nascosti. Ha deviato le mie vie, mi ha dilaniato e mi ha reso desolato. Ha teso il suo arco e mi ha fatto il bersaglio delle sue frecce. Ha fatto penetrare nel mio cuore le frecce della sua faretra. Sono diventato lo scherno di tutto il mio popolo, la sua canzone di tutto il giorno. Mi ha saziato di amarezza, mi ha fatto bere assenzio, mi ha spezzato i denti con la ghiaia, mi ha coperto di cenere. Hai allontanato la mia anima dalla pace, ho dimenticato il benessere. Ho detto: è scomparsa la mia fiducia e la mia speranza nell'Eterno. Ricordati della mia afflizione e del mio vagare, dell'assenzio e dell'amarezza. L'anima mia se ne ricorda del continuo ed è abbattuta dentro di me. Questo voglio richiamare alla mente e perciò voglio sperare. È una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti, perché le sue compassioni non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Lm 3.1.23. Queste parole lette in una poltrona al caldo e nella serenità forse risultano anche belle, ma quando tutto va storto, quando vedi la mano di Dio contro di te, quando Dio è come un orso in agguato, chi parlerebbe di un Dio fedele? È come se l'11 settembre del 2001, quando le torri gemelle cadendo hanno provocato migliaia di morti, qualche americano avesse detto: Dio è fedele. Oppure, se quando in Giappone le città di Hiroshima e Nagasaki furono polverizzate dalle bombe atomiche, qualche giapponese avesse detto: grande è la fedeltà di Dio, dobbiamo riconoscere che gli ebrei credenti in Yahweh, il loro Dio, o erano pazzi, o concepivano la fedeltà di Dio in un modo a noi ignoto. Il terzo esempio di come vedevano la fedeltà di Dio i credenti dell'Antico Patto lo abbiamo dalla lettera agli ebrei. L'autore ricorda la fede di Abele, di Enoch, di Abramo e di sua moglie Sara. In seguito commenta: tutti costoro sono morti nella fede, senza aver ricevuto le promesse. Eb 11.13. Poi lo scrittore continua a parlare di altre persone che hanno onorato Dio con la loro fede, come Giacobbe, Mosè, Gedeone, Sansone, Davide, Samuele, e anche di costoro commenta: eppure, tutti costoro, pur avendo avuto una buona testimonianza mediante la fede, non ottennero la promessa. 11.39. Dunque Dio aveva fatto delle promesse ai suoi fedeli, ma per quanto essi non ne videro l'attuazione nonostante tutto, ritennero fedele il loro Dio, 11.11, e lo onorarono con una vita al suo servizio. Solo dopo molti secoli la fede ostinata di questi credenti è stata grandemente celebrata, perché la promessa fatta a Davide in relazione alla presenza continua di una sua discendenza sul trono si è avverata in Cristo, anche davanti ad una città e un popolo distrutti. L'immutabilità della fedeltà di Dio è dimostrata dalla realtà che, nel XXI secolo, il popolo di Israele esista ancora, nonostante le svariate e pesantissime traversie della sua storia, mentre tanti altri popoli, invece, si sono estinti. Infine, i credenti dell'Antico Patto non hanno ricevuto le promesse, perché, come dice in seguito l'autore della lettera agli Ebrei, Dio aveva provveduto per noi qualcosa di meglio, affinché essi non giungessero alla perfezione senza di noi. 11.40. Il che vuol dire che i credenti prima di Cristo dovevano aspettare la nascita, la morte e la resurrezione di Gesù per ottenere assieme a noi tutte le promesse. Dunque, Dio è fedele soprattutto quando non vediamo e non comprendiamo l'avverarsi delle sue promesse, e come incoraggiamento possiamo guardare a Gesù. Quando il diavolo, tentandolo nel deserto per incitarlo ad ubbidire di buttarsi giù dal tempio, gli citò una promessa della Scrittura, secondo la quale non si sarebbe fatto alcun male. Mt. 4.6. Gesù è stato protetto da innumerevoli pericoli durante la sua vita, ma, pur essendo cosciente di dover morire in croce, il peso schiacciante dell'abbandono da parte di Dio causato dal proprio essersi caricato di tutto il peccato dell'umanità intera, lo oppresse al punto che, inchiodato, sulla croce, gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Mt. 27.46. Gesù abbandonato dal Dio che era sempre stato sempre unito intimamente con lui. Gv. 8.16, 29, 16.32. Non era forse questo il momento per dire che Dio non è fedele? Eppure, proprio in quell'abbandono, era nascosta la grandissima fedeltà di Dio nel riscattare l'umanità dalla perdizione. È proprio vero. Quando Dio non ci sembra fedele, è la volta buona che si nasconde per insegnarci ad avere fede in Lui, anche quando non lo si vede come tale e non si comprende. Questa è la visione ebraica della fedeltà di Dio. Aprile 2008. Ellero.